Siamo in missione per conto di Dio. Quattro mattino di Luca Telese. Lei ha clacsonato. Tu hai clacsonato. Io no. Ah sì, ho appoggiato appena il gomito. È un clacson sensibilissimo. Basta toccarlo, vede? Provi, provi anche lei, basta la punta d'un dito, vede? Unforgettable. Tarapia tapioco! Prematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scrivai con Pefadina. Come antifurto, per esempio. Ma che antifurto, mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un centrometta. Ma no, aspetti, mi porga l'indice, eh? Lo alzi così, guardi, guardi, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche. Unforgettable. Sorella! Col tarapia tapioco, come se fosse la supercazzola per lei. Voglio il cappellano! Ho visto la Madonna! Cappellano! Ho visto la Madonna! Qui c'è gente che soffre per davvero, capite? Chiamo il medico di turno e domani me la vedrete col professore! Scappellato? Filulilla, squacquarella! Dalla sorella! Unforgettable, indimenticabile, e se n'è andato anche lui, il conte Rambaldo Melandri, alias Gastone Moschin, grande attore, l'interprete del conformista di Milano Calibro 9, l'unico Don Camillo, oltre a Fernandel, un personaggio indimenticabile, signori e signori, il padrino, ma poi tutti siamo legati a un simbolo, un ruolo, una cosa che abbiamo fatto nella vita, e lui era Amici Miei. Se ne vanno con lui gli anni 70, e io saluto Mario Giordano, direttore del TG4, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuto già sveglio. Per te era qualcosa questa Madeleine, questo ricordo di Amici Miei e questo personaggio? Assolutamente sì, credo per tutti quelli della nostra generazione qualcosa. In particolare in questo momento quello che mi faceva riflettere era questo clima contro il politicamente corretto. Se uno lo rivede adesso, sono maschilisti, sono goliardi, rompono tutti gli schemi. Allora se ripenso adesso ad Amici Miei, oltre appunto alla nostalgia che si ha per tutto quello che si è visto e rivisto in tanti anni, mi stuzzica in questo clima in cui il politicamente corretto sta cercando eroicamente di sopraffare ogni cosa, questo spirito invece di rottura di tutti gli schemi che c'era. E c'era la fantasia, c'era la libertà, e oggi nel popolo i youtuber spesso ripetitivi, io direi quello spirito, quella satira erano un grande anticorpo dell'Italia e sarebbe utile anche oggi. Assolutamente sì, Cippa Lippa di Moschin sarebbe un grandissimo anticorpo anche oggi, la supercazzola, figuriamoci, la supercazzola, se non è un anticorpo, e quindi sì, penso che cos'è la supercazzola, se dovessi scrivere l'editoriale, che cos'è la supercazzola nella cultura italiana? La supercazzola è quando ti pigliano per i fondelli raccontando e tu smonti il giochino di chi ti sta pigliando per i fondelli, siccome di supercazzole ne sentiamo ogni giorno, basta sentire la maggior parte dei discorsi oggi sono supercazzole, come erano supercazzole anche in quel periodo lì. Non mi ricordo che allora quando ero ragazzo andava di moda un giochino, no? Che ti metteva le frasi e tu sceglievi frasi diverse, componevi delle frasi che non avevano alcun senso, dal sindacalese, dal politichese. Oggi si ripropone spesso la stessa cosa, cioè ci sono frasi composte in modo che non hanno nessun senso. Allora la supercazzola è smascherare il giochino di chi parla non per dire una cosa, ma semplicemente per pigliarti per i fondelli. E allora andiamo nelle supercazzole contemporanee e sentiamo il fritto misto di ieri. L'Egitto è un partner ineludibile dell'Italia, esattamente quanto l'Italia è un partner imprescindibile per l'Egitto. È una vergogna che lei sia venuto qui esattamente 22 giorni dopo l'invio dell'ambasciatore al Cairo. Questa è una cosa vergognosa. E ripeto, siete corresponsabili voi due, presidenti Casini e Cicchitto. Per quanto riguarda la vergogna, la respingo immediatamente al mittente. Si deve vergognare lei di un intervento cialtronesco che strumentalizza la memoria di Regeni solamente per una speculazione di carattere politico. L'apparente fragilità di questi ragazzini piccolissimi e soprattutto il fatto che non avessero contezza reale di quanto fatto. La polizia sopra, scomprare! Ancora la polizia, come si fa in noi? Non parla! E se noi del PD vogliamo vincere le elezioni, c'è un solo modo: non possiamo lasciare il fascismo ai fascisti. Allora, ci sono tante cose dentro, ma c'è soprattutto l'interrogatorio dello stupratore, presunto stupratore, di Rimini e la sua meravigliosa ricostruzione. Dormivo. Mario Giordano, che cosa pensi di questo interrogatorio incrociato in cui Butungo ha spiegato che lui si è addormentato su una sdraio e che gli altri hanno raccontato che non hanno fatto nulla, hanno soltanto guardato? Ma che fa parte del rimpallo delle responsabilità cui assisteremo. Il mio timore è che con tutto quello che abbiamo visto in queste ultime settimane, tra un po', e nonostante appena passa l'ondata di grande sdegno, ci distraiamo, grazie a meccanismi vari ci ritroveremo che queste persone avranno permessi, uscita e saranno fuori dal carcere. Questo è il mio grande timore. Per questo, visto che la Polonia ieri ha chiesto l'estradizione, il mio suggerimento è diamogliela alla Polonia. Visto che non siamo stati in grado, e pur avendole tutte le possibilità, perché la cosa che abbiamo raccontato ieri è incredibile, perché a uno che non aveva diritto all'asilo politico abbiamo dato il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, no? E si è visto quanto umanitario c'era in lui. Gli altri addirittura erano già stati portati in caserma perché dovevano essere rimpatriati, per essere ricongiunti al padre che era stato espulso e che stava nelle galere del Marocco. Poi a un certo punto invece si interrompe questo processo quando già sono in galera, quando già il sindaco ha raccolto i soldi per rimpatriare, e anziché espatriare una famiglia di questo genere che dava già problemi, cosa abbiamo fatto? Geni assoluti, abbiamo importato, abbiamo fatto venire qua il padre che già stava agli arresti domiciliari, che già stava agli arresti e che appena è arrivato qua è andato agli arresti domiciliari. Quindi abbiamo fatto immigrazione di una incredibile risorsa, per dirla con termini boldriniani, che appena arrivato stava già agli arresti domiciliari con la famiglia sociale. Allora, visto che non siamo stati in grado di gestire una cosa che andava gestita prima, perché non dovevano essere qui, almeno adesso diamogli alla Polonia una bella giustizia polacca. In questo momento, considerata come è stata la giustizia italiana in questi ultimi anni, io mi fiderei di più della giustizia polacca, comunque fuori dall'Italia. Allora, ti ho messo nel blob anche il Crozza imitato da Minniti. C'è un ministro di sinistra e piace molto anche a tanti opinionisti di destra. Tu sei fra questi? Sì, mi piace Minniti, soprattutto la sua politica di contenimento degli arrivi, perché ha smascherato il fatto. Io avevo partecipato almeno 225 talk show in questi ultimi 3 anni, in cui tutte le volte che veniva fuori il tema dell'immigrazione mi diceva no, è un fenomeno epocale, non si può fare nulla, tu vuoi fermare le barche, come puoi pensare di fermare questo flusso? Non si può, bisogna aspettare l'Europa, bisogna aspettare l'ONU, bisogna aspettare i marziani, bisogna aspettare i venuti Giusia, e invece si è dimostrato che ha dimostrato Minniti che bastava fare poco, lui ha fatto poco, secondo me ancora si può fare molto meglio, però ha fatto fare poco e ha ottenuto già dei risultati. Però è vero che se sono fermi nei lager della Libia non è che tranquillizza chi ha cuore un po' di spirito umanitario, non è carinissimo trovarsi nel lager della Libia con gli elettrodi, le frustate, il digiuno, le famiglie separate. Lo dico, guarda, perché è una soluzione per noi, ma non è entusiasmante. Ho capito, però io cioè, se tu lo valuti da persona da persona umana o da cristiano, perché è cristiano in base ai suoi valori sicuramente, ma se io faccio il ministro dell'interno dello Stato italiano, il mio primo compito è quello di difendere lo Stato italiano. Lo Stato esiste perché noi dobbiamo altrimenti che ragione ho io di pagare le tasse, di rinunciare a parte della mia libertà personale affidandola allo Stato? No, perché penso che lo Stato debba difendere lo Stato italiano, e quindi il Ministro dell'Interno quello deve fare, e lo sta facendo da questo punto di vista. Poi delle perplessità invece su altre cose, da questo punto di vista sta facendo quello che deve fare lo Stato italiano. Mi dispiace un sacco dei lager libici, mi dispiace un sacco della povertà nel mondo, mi dispiace un sacco che ci siano delle persone che muoiono nel mondo, ma non possiamo neanche pensare che l'Italia sia la soluzione a tutti i problemi del mondo e che per risolvere tutti i problemi del mondo noi dobbiamo devastare questo meraviglioso paese che è l'Italia, come si stava facendo, come si è fatto in questi ultimi 3 anni. Certo, però nel momento in cui noi finanziamo chi tiene i lager, in qualche modo abbiamo una responsabilità, non siamo estranei, no? Se diamo i soldi a qualcuno perché ce li tenga buoni nel recinto o no? Però tutti i finanziamenti, no, è come il Congo o il Senegal, io non c'entro niente, no, stiamo dicendo tienicieli lì e ti do pure i soldi. Tutta la politica di aiuto ai paesi africani da sempre comporta un rischio di questo genere. Io adesso ripeto, ci può sempre stare. Detto questo, ribadisco, il compito di uno Stato è quello di difendere il proprio territorio. E Minniti l'ha fatto non solo finanziando, ma anche per esempio con una politica finalmente un po' più severa nei confronti delle organizzazioni non governative. Duello Casini di Battista. Con chi stai? Ma a me Casini sinceramente ieri mi ha irritato, perché accusare di strumentalizzazione politica, ovvio che tutti strumentalizzano, in Parlamento fai un dibattito, una cosa è naturale la strumentalizzazione, per cosa vuol dire la strumentalizzazione politica, c'è sempre, altrimenti abolisci il Parlamento se non c'è, e accusare un intervento di quel tipo di cialtronesco è troppo facile, quindi mi ha molto irritato, anche perché ritengo che sia vero che si poteva dare una risposta prima, e che la risposta che Alfano ha dato ieri poteva tranquillamente venire 20-30 giorni fa, quando è stata presa la decisione. Quindi mi ha molto irritato il tono saccente di Casini. Lui non ha mai fatto la strumentalizzazione, che improvvisamente scopre la strumentalizzazione politica, uno che fa politica da una vita, sinceramente mi ha un po' infastidito. Allora, svegliamo un retroscena, e questo programma è dedicato come un monumento al popolo dei già svegli alle 6 del mattino. Tu oggi risveglio alle 5:30, allora partecipa al nostro gioco e poi ti infiliamo nel nostro repertorio. Tu sei già sveglio alle 5 perché? Ma io sono già sveglio. Sei un insonne, sei un inquieto, no, devi lavorare. No, io sono sveglio alle 5 perché? Perché mi piace anticipare i tempi. Nella vita, però, tutta la vita. Nella vita io anticipo, cerco sempre di giocare d'anticipo, anche quando giocavo a calcio male, scarpone, però l'unica cosa che mi riusciva un pochino era l'anticipo, ecco, io cerco sempre di giocare d'anticipo. E qual è l'ora esatta in cui Mario Giordano si leva? Mi alzo, ma sì, in genere fa le 5:30, le 6. Ah, ecco, bene, infatti sei l'incubo dei tuoi redattori. Allora ti ringrazio moltissimo per questo intervento. Proprio se riesci a darmi un parere in 10 secondi sulla guerra che apre oggi buona parte dei giornali, i vaccini, lo strappo del Veneto che dice 2 anni di tempo per mettersi in regola? Al di là del caos dei vaccini di cui abbiamo parlato e continueremo a parlare, su cui io ho molti dubbi su come è stato fatto e quindi condivido le cose, mi sembra chiaro che si apre anche in vista del referendum di ottobre una partita politica, cioè quella che ha posto il governatore Zaia non è soltanto una questione tecnica, anche perché il cavillo lì è molto sottile dal punto di vista, ma è chiaramente una politica. Chi deve decidere sulla salute dei cittadini, il governo nazionale o le regioni? Che autonomia hanno le regioni? Questo io credo che sia uno dei grandi temi che ci accompagnerà quest'autunno, anche appunto in vista del referendum che ci aspetta. Grazie, un Mario Giordano da Record, strade e poi il popolo dei già svegli. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta "24 mattino". I già svegli. Sono già sveglio perché la notte non riesco a dormire per i troppi pensieri. Sono Gian Guido e faccio il tornitore. Ogni mattina mi sveglio alle 5 e mi sono rotto le palle. Sono sveglia perché mi devo preparare per andare al lavoro e nel frattempo ascolto la radio per aggiornarmi, per sentire un po' di musica e per svegliarmi soprattutto. E aggiungete anche il vostro racconto a questa biografia dell'Italia, l'Italia con gli occhi aperti, la mattina presto, SMS e qualunque WhatsApp a 349-238-6666. Qui è Luca Telese e collegato al telefono c'è il senatore Antonio Razzi, che ci ha fatto preoccupare o gioire a seconda di come voi leggete la storia, la biografia, le uscite di questo personaggio, perché il senatore ha annunciato: vado in Corea a trattare. Davvero? Buongiorno, senatore Razzi. Buongiorno, buongiorno. Ma è vero o è uno scherzo? Cioè va proprio lì a trattare dove c'è la Cina, l'America, la Corea, arriva il senatore Razzi? Ma guarda, io ho visto l'amicizia e visto che loro a me almeno mi vogliono bene, ma non solo, ma anche a tutti gli italiani, perché devo dire che in Corea del Nord tutti gli italiani sono ben apprezzati e ben visti, perché amano la nostra cultura, amano il nostro calcio, seguono le nostre partite di calcio, e perché non approfittare, visto il bene che ci vuole, almeno penso che ci ascolteranno. E allora la nostra diplomazia, una dei migliori al mondo, penso che potremmo essere noi l'ago della bilancia, diciamo, per risolvere questi problemi, e non altre nazioni, come ieri ho letto che si è offerto la presidente della Confederazione Svizzera. No, non va bene. Boris Lloyd. Allora, magari perché non possiamo noi facciamo valere la nostra italianità anche lì? E io sono convinto che lei voglia far valere la nostra italianità, ma la domanda che le faccio è: ha torto Kim Jong? Ma sicuramente. Sicuramente sì, perché fa spaventare tutto il mondo in questi esperimenti che lui... Quindi, ma lei è uno strappo incredibile, cioè sta criticandolo. Ma io domani sera sono con il nuovo ambasciatore che è arrivato proprio in questi giorni, e c'è un aperitivo lì in ambasciata per incominciare la sua attività qui in Italia. E naturalmente criticherò questo nuovo missile lanciato così all'improvviso, e gli dirò come mai, le motivazioni, che cosa possiamo fare per fermare questi esperimenti, magari ridurrendo sempre l'embargo, perché ogni cosa sembra l'embargo, ma sai benissimo io quasi ci credevo, lei ora mi dice e va all'ambasciata a proporre di ridurre l'embargo e per disincentivare a tirare i missili. No, così non mi pare una posizione forte, diciamo. Ma io vado lì perché... Quindi lei continua a essere contro ogni embargo contro la Corea? Ma sicuramente, perché in quel caso lì si favorisce il contrabbando, perché magari arriveranno dalla parte del mare, o da parte non so da dove arriverà, la roba ce l'ha, arriverà. Allora perciò, per evitare anche il contrabbando, allora trattare su un tavolo, non fare muro contro muro, perché quello non porta bene a nessuno. Magari trattare, dice, io ti riduco questo, però tu basta con questi esperimenti, perché il mondo vuole vivere in pace e non vuole stare sempre a vibrare per i vostri esperimenti. Allora sentiamo un secondo e poi torniamo con lei. Quanta emozione, quanta paura, quanto dibattito ha alimentato questo esperimento nucleare e i due giorni di passione che stiamo vivendo. Tutto è iniziato nella notte italiana alle 5.36, quando i sismografi di tutto il mondo hanno registrato una scossa di magnitudo 6,3 in Corea del Nord, un sisma artificiale provocato dall'ultimo test nucleare di Pyongyang. Ho dato la mia disponibilità di rappresentare eventualmente l'Italia o addirittura gli Stati Uniti d'America. Sono allora completamente a disposizione. Nel Nord Corea i missili sono delle cose erotiche. Facciamo vedere la nostra forza. Ma io non ho capito, senza sta cosa chi si accorgerebbe che loro esistono? Allora, Lori del Santo fornisce una lettura per ora abbastanza inedita, quella addirittura che i missili siano simboli erotici e lei non so se ha tradotto il suo cognome, per questo forse c'è anche molta simpatia nei suoi confronti, ma qual è la lettura che lei dà della strategia della Corea? Che cosa vogliono? Cosa vogliono provare al mondo? Fare una prova di forza? Rompere l'embargo? Attaccare veramente l'America? Qual è l'intenzione che c'è dentro un programma nucleare titanico che è costato sacrifici enormi al popolo coreano? Guarda, sicuramente loro non attaccheranno nessuno. Questo ne ho parlato con Kim Yunam, il Presidente della Repubblica, e anche con Ri Su-yok, che è il vice di Kim, del maresciallo. Loro è proprio di casa, li conosce tutti. Beh, ogni volta che vado devo dire che mi ospitano, mi invitano nei loro palazzi istituzionali, diciamo proprio per parlare di queste cose, anche di parlare delle cose che succede nel mondo. Io ho detto, ma io sono venuto qui a parlare delle cose che succede da voi, perché il mondo è preoccupato, ma io personalmente sono preoccupato per gli esperimenti che fate. E loro mi hanno detto, guarda senatore Razzi, noi non dobbiamo attaccare nessuno, noi facciamo queste cose solo per tenerci in difesa del nostro popolo. Se ci attaccano noi rispondiamo, ma se non ci attaccano noi non dobbiamo fare guerra con nessuno. Beh, io ho detto, almeno mi avete un po' tranquillizzato dicendo questo, che non attaccherete nessuno, dice mi sta benissimo. Però io ho detto, diciamo, dovete fermarvi, ecco, io glielo dico anche con un sorriso, perché non è inutile che si va lì arrabbiati. Però ecco, io, come ho sentito, mi sono dato disponibile se devo rappresentare qualcuno. Chiaro che io quando vado rappresento me stesso, io vado con un gruppo anche di altri parlamentari, anche noi parliamo di cose, ma non possiamo dire a nome dell'Italia, a nome dell'America o a nome del Giappone o di chi sia, perché non ho una delega per dire anche se io quando la penultima volta ho chiesto al Ministero degli Esteri, datemi qualche domanda che io faccia. Ah no, questo è troppo. No, scherzo. Immagino che si rappresenteranno loro. Comunque, grazie senatore Razzi, e rigiriamo questo appello. Se il Ministero degli Esteri ha delle domande da fare alla Corea del Nord, scrivere senatore Razzi. Ci fermiamo, ma ancora un secondo, pochissimo. GR Strade in diretta e torniamo qua.